498. Telline o arselle in salsa d'uovo? Le arselle non racchiudono sabbia come le telline, e però a quelle basta una buona lavatura nell'acqua fresca, tanto le une che le altre, mettetele al fuoco con un soffritto di aglio, olio, prezzemolo e una presa di pepe, scuotetele e tenete coperto il vaso, onde non si prosciughino. Levatele quando saranno aperte ed aggraziatele con la seguente salsa: uno più rossi d'uovo, secondo la quantità, agro di limone, un cucchiaino di farina, brodo e un po' di quel sugo uscito dalle telline. Cuocetela ad uso crema e versatela sulle medesime quando le mandate in tavola. Io le preferisco senza salsa e le fo versare sopra fette di pane asciugate al fuoco. Così si sente più naturale e il gusto del frutto di mare. Per la stessa ragione non fo mettere il pomodoro nel risotto con le telline.